8. Ascolta e controlla. 1. Luciano non ha niente di interessante da dire. 2. Di chi è l'auto? È la mia. 3. I miei genitori sono in vacanza al mare. 4. Come dice il proverbio, a ciascuno il suo. 5. Di chi sono i documenti? Sono nostri. 6. Per piacere, vorrei un programma dei corsi. 7. Scusa, ma non sono affari tuoi.